Voglio dare spazio a Roberto da Milano, perché ci dicono che, leggo, lavora all'Agenzia delle Entrate. È vero, Roberto? Buongiorno. È vero. Dica. Ci lavoro e ne sono anche fiero, nel senso che credo di svolgere una funzione sociale fondamentale. E provo che una radio come la vostra, un giornalista come Giannino in particolare, dovrebbe in qualche modo premetterlo il fatto che svolgiamo una funzione sociale importante. Vieppiù in un paese nel quale i cittadini spesso considerano il pagamento delle imposte un'inutile scocciatura da evitare il più possibile. A me, io non mi sento un operatore di Dracula. No, ma questo Oscar Giannino non l'ha detto. Il mio quotidiano non è fatto di abusi. Il mio quotidiano è fatto di persone che evadono le imposte chiarissimamente, e il mio lavoro si tratta di recuperare denaro che loro devono allo Stato. È chiaro. Basta con questa storia del cittadino che vede nello Stato un soggetto che... Guardi, abbia pazienza, io la rispetto, ma lei non può dire basta con il cittadino. Lei è al servizio del cittadino e non si permetta di dire basta al cittadino. Il cittadino ha tutti i sacrosanti diritti di pretendere che lo Stato, quando agisce nei suoi confronti con accertamenti induttivi, dichiari precedentemente, con trasparenza assoluta, qual è il criterio per cui viene messo al mirino il cittadino. E questo l'amministrazione con il redditometro, tanto per cambiare, come in mille altri adempimenti, non l'ha fatto. Io non sopporto che un funzionario dello Stato dica basta col cittadino. Il funzionario dello Stato dica io servo il cittadino, tutti noi.